Oggi ricorre nuovamente la parabola del seminatore e questa parabola ci dice che Dio è appunto questo seminatore che semina la sua parola e la semina su diversi tipi di terreno, sul terreno sulla strada, sul terreno sassoso, sul terreno pieno di rovi e sul terreno buono. E mi sono sempre chiesta, ma perché, Signore, tu semini la tua parola sulla strada o sul terreno sassoso oppure sul terreno pieno di rovi e non soltanto sul terreno buono? Sembrerebbe che un po' sia colpa tua se il seme non porta frutto. E poi ho visto che mi sono un po' documentata e ho capito perché il Signore ha raccontato questa parabola, perché in realtà in Palestina i contadini veramente seminano un po' dappertutto con abbondanza. Il seme del seminatore, quando ai tempi di Gesù i contadini seminavano abbondantemente e questo seme cadeva un po' dappertutto, non cadeva soltanto sul terreno buono, cadeva un po' dappertutto. E allora ho pensato, ecco, il Signore continuamente semina la sua parola perché continuamente il Signore vuole incontrare ciascuno di noi e ci vuole incontrare sempre e purtroppo noi non sempre siamo disponibili. Infatti questi terreni non sono quattro tipi di persone diverse, ma siamo noi stessi in quattro situazioni diverse. Cioè alle volte noi siamo il terreno buono, alle volte siamo il terreno sassoso, dipende un po' dalle circostanze, dal momento che stiamo vivendo, dal momento che stiamo attraversando. Quindi questi quattro tipi di terreno siamo noi in quattro tipi di circostanze diverse, cioè dipende se siamo presi da preoccupazioni, se siamo presi dai nostri interessi personali, se siamo superficiali. E allora, che cosa ci vuole dire questa parabola? Qual è il senso di questa parabola? Il senso è questo, cioè almeno oggi ci vogliamo concentrare su questo particolare, vogliamo cogliere da questa parabola questo messaggio, cioè che noi possiamo sempre divenire un terreno fertile, un terreno che porta tanto frutto. E perché dico sempre possiamo divenirlo? Perché dipende da noi essere il terreno fertile o meno. Perché? Perché se questo terreno è sassoso basta togliere i sassi, se questo te terreno è pieno di rovi basta togliere i rovi, ma che cosa ci impedisce di togliere i sassi, di togliere i rovi? Una cosa ce lo impedisce, la mancanza di consapevolezza. Allora, per poter cambiare c'è soltanto un sistema. Prima di tutto rendersi conto di come è il nostro terreno. Allora oggi cerchiamo nella preghiera di valutare sempre meglio come accogliamo la parola, cioè facciamo un esame di come è la nostra preghiera. Cioè la nostra preghiera oggi vuole vertere su come è la nostra preghiera, cioè preghiamo su come preghiamo. Cioè facciamo un'analisi, come prego io? Prego distrattamente, prego frettolosamente, prego pensando magari soltanto ascoltando questa riflessione, questi 5 minuti penso di aver pregato, oppure dedico un tempo un po' più lungo al Signore, dopo aver ascoltato magari la meditazione, questi spunti di riflessione che cerco di offrire ogni giorno. Come ci penso durante la giornata, ne parlo con il Signore, ne faccio oggetto della mia riflessione, oppure l'ascolto questi 5 minuti molto di fretta e poi tutto finisce lì. Allora, per poter diventare un terreno che porta frutto, abbiamo bisogno di renderci conto di com'è il nostro terreno e per poter poi cambiare abbiamo bisogno di silenzio, di solitudine, di preghiera. Buona giornata.